Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette, 10 minuti, inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria: parleremo della produzione industriale italiana anche alla luce delle dichiarazioni oggi rese nel corso dell'assemblea annuale dell'Asse Lombarda, che è la prima, diciamo, a livello di importanza, di peso, delle territoriali di Confindustria. Riunisce infatti Milano, Monza e Brianza, 6.000 imprese con 320.000 addetti. Oggi l'ultimo intervento del presidente uscente Gianfelice Rocca, la presenza anche del Presidente del Consiglio Matteo Renzi, del Presidente di Confindustria Vincenzo Boccia. In apertura appunto collegheremo questo anche al dato, non c'entra nel contingente, ma oggi è uscito il dato sul mese di agosto, dove la produzione industriale torna a salire e lo fa anche in maniera insistita, e ne parleremo. Per quello che ha a che fare invece con i temi di carattere internazionale, la scorsa settimana c'è stato il G20 di Washington, abbiamo a lungo parlato. Oggi c'è un vertice Eurogruppo dei ministri economico-finanziari dell'area euro, in cui sostanzialmente si parla, stante il tema è la Grecia, ma vi sono state già delle dichiarazioni che i nostri GR24 vi hanno ricordato da parte di Moscovici e quindi il commissario europeo agli affari economico-monetari sull'Italia. Ha detto: la Commissione si è sempre mostrata disponibile a prendere in considerazione la flessibilità, ma allo stesso tempo serve che l'Italia continui ad essere seria nello sforzo di ridurre il deficit. E poi in qualche modo ha risposto il ministro Padoan, ha detto: noi lavoriamo nell'assoluto rispetto delle regole e in collaborazione con la Commissione europea, non c'è il problema di rassicurare nessuno. Anche di questo parleremo. Riprenderemo il professor Bruni, che venerdì avevamo interrotto per mancanza di tempo, sullo scenario e sui rischi dello scenario che molti da più parti vedono: eccesso di liquidità, tassi molto bassi in Europa ma che dovranno tornare a salire invece negli Stati Uniti, al di là poi delle previsioni più, diciamo, di medio lungo termine. Penso all'ipotesi, al rischio che si vada verso una stagnazione economica secolare. Ci sono rischi molto più a breve, cioè che possa in qualche modo le borse, che al di là di Milano hanno toccato livelli anche abbastanza alti, possano sgonfiarsi rapidamente il prossimo anno, e l'eccesso di liquidità presente sul mercato non tranquillizza. Dicevo, riprendiamo anche i temi del G20 e poi parleremo invece del premio Nobel all'economia, che quest'anno, quindi per il 2016, è stato assegnato al britannico Oliver Hart e al finlandese Bengt Holmström per i loro studi sui contratti. Loro hanno sviluppato infatti la teoria dei contratti, e questa teoria dei contratti, che tra l'altro va, detta così sembra teoria pura, in realtà no, va anche ad analizzare come le retribuzioni si possono basare sugli andamenti, sulle performance, e anche e soprattutto negli alti dirigenti. È un tema delicatissimo, perché ricorderete che secondo molti, alla luce dell'eccesso di rischi presi dalle grandi banche d'affari prima dello scoppio della crisi nel 2008, c'era proprio il legare a brevissimo il loro stipendio, il loro bonus a determinati obiettivi raggiunti nel breve. La critica fu, ed è stata e lo è, che quando gli obiettivi sono così a breve, la tendenza, la tentazione, in molti casi era un dato di fatto, del manager era di pompare, assumendosi anche i rischi impropri, l'azienda o la finanziarizzazione dell'azienda o l'utilizzo di strumenti finanziari per ottenere quei risultati nel breve, prendere il bonus, non capendo che però, o meglio capendo ma fregandosene del fatto che però in questo caso la società fosse stata messa sotto una fortissima proiezione verso il rischio, perché ti riassunto punti rischi impropri. Di questo parleremo nella seconda ora del programma. La borsa più 1,40% Milano, per quello che riguarda, e quindi la giornata è buona a Piazza Affari. Per quello che riguarda invece le altre borse, abbiamo Parigi più 1%, Francoforte più 1,30%, Londra più 0,80%, il Dow Jones più 0,80% anch'esso. Ferragamo perde l'1,60, A2A lo 0,70, Luxottica mezzo punto, guadagna molto bene invece tutto il settore bancario, Banco Popolare più 6%, Pop Milano più 4,60, Pop Emilia Romagna più 2,70, Azimut più 4,13, poi tra i non bancari Saipem più 3,30%, Telecom più 2,90, bene anche le Poste Italiane più 2,40, Fiat Chrysler più 2,15 come Exor, Eni più 2,11%. Già dall'andamento di Eni e Saipem capite che, e Tenaris più 2, che il petrolio oggi è in rafforzamento, infatti ha superato i $51 al barile, prezzo del WTI, quindi non il Brent ma il WTI, più 3% rialzo del prezzo del petrolio, e si va a comprare in questi casi titoli legati o titoli petroliferi o come Tenaris legati al settore petrolifero. Mediolanum più 1,90, Terna più 1,70 come CNH Industrial, UbiBanca più 1,60 come Unipol. Ultima cifra, dicevo, quella per i vostri sms e WhatsApp, 349-238-6666, e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. E c'è polemica, partiamo subito dalle notizie di carattere europeo, per quanto scrive oggi il Financial Times, che sostiene che Deutsche Bank avrebbe goduto di un trattamento di favore negli stress test condotti dall'European Banking Authority, i cui risultati, li ricorderete, sono usciti lo scorso luglio, e sostanzialmente Monte dei Paschi non ce la faceva, ma Deutsche Bank sì. Molti si chiesero, ma come vengono fatti questi stress test, visto che la banca tedesca ha in pancia ancora 30 miliardi di titoli derivati e perdite in aumento. Secondo il Financial Times, la banca avrebbe goduto di una speciale concessione del suo supervisore, che è la BCE. Nel bilancio della Deutsche Bank, infatti, sarebbero stati inclusi 4 miliardi di dollari di proventi derivanti dall'attesa vendita della sua partecipazione nella banca cinese Huaxia. L'accordo però era stato raggiunto dopo il dicembre 2015, quindi dopo il limite temporale fissato dagli stress test, e adesso tra l'altro l'operazione sta subendo rallentamenti. Tante altre banche avevano operazioni in corso a fine 2015, ma per nessun'altra è stata fatta una concessione analoga. Il Financial Times cita la spagnola Caixa Bank, che ha completato la cessione di asset a esteri nel marzo 2016 e ha incassato 2 miliardi e 600 milioni di euro, ma non li ha potuti inserire negli stress test perché devono essere operazioni entro il 31 dicembre. Non si capisce come mai invece Deutsche Bank abbia inserito 4 miliardi di un'operazione che era tutt'altro che conclusa e non lo è ancora. Nello scenario più avverso, Deutsche Bank mostrava nei test quello che è il criterio utilizzato per capire se se li passi o no, il Common Equity Tier 1 al 7,8%, senza tener conto di questo, sarebbe scesa invece, senza tener conto dell'operazione su Huaxia, sarebbe scesa al 7,4%. La BCE ha detto che tratta le banche con gli stessi criteri e come previsto dalla normativa. Veniamo alle banche di casa nostra, perché oggi il numero uno, il consigliere delegato di UbiBanca, Victor Massià, ha detto relativamente alla trattativa tra UbiBanca e la Banca Centrale Europea per acquistare tre delle quattro banche risanate, ha detto in maniera molto laconica: non ci sono né sì né no, è una cosa ancora in fase di studio, quindi non è né un sì né un no quello che è arrivato dalla Banca Centrale Europea. Oggi invece, restando sempre in Europa, in Gran Bretagna Theresa May, il primo ministro, ha cercato di correggere un po', io li chiamo scivoloni, ma magari non sono scivoloni, è proprio l'intenzione che ha la Gran Bretagna della settimana scorsa. Ricorderete la proposta di una quota di stranieri da chiedere alle aziende, di assumere solo un britannico per lo stesso lavoro equivalente, e l'altra proposta, quella di non ricevere consulenze di economisti accademici stranieri anche quando li deve fornire, per esempio, la London School of Economics, sui rischi e l'impatto della Brexit. Oggi Theresa May, ha detto ed è stata invitata, oltre che aver detto, a non chiudere la porta all'Europa. L'appello è arrivato dalla direttrice generale della Confindustria britannica, che si chiama Caroline Farbheim, che si è scagliata contro la serie di misure in senso autarchico a cui il governo sta lavorando in vista dell'uscita dall'Unione Europea. Non solo ha criticato la proposta delle liste per i lavoratori stranieri, ma lì c'è già una marcia indietro, ma ha ricordato che la May non può ignorare suggerimenti e necessità degli industriali con il rischio di danneggiare l'occupazione e quindi la società britannica. Intanto il Financial Times però ha rivelato oggi dettagli di un piano del governo britannico che punterebbe a limitare gli investimenti stranieri nel Regno Unito, e invece dall'altro il tentativo della Germania di attirare a Francoforte le grandi banche della City, che stanno, banche straniere che stanno nella City, preoccupate dalle conseguenze negative della Brexit. Buono il dato che arriva oggi dalla Germania sull'export, più 5,4% d'agosto, import più 3%, il surplus, l'avanzo commerciale tedesco già altissimo, si amplia così a 22,2 miliardi di euro. La differenza tra quanto esporta e importa la Germania. E dicevamo del dato oggi sulla produzione industriale, più 4%, scusatemi, anno ai massimi, il dato di agosto dal 2011 su base annuale, è cresciuta anche su base mensile dell'1,7%. Devo dire grazie anche e soprattutto agli autoveicoli, più 42% nel primi 8 mesi, più 9,5% rispetto all'anno prima. La Confindustria, il centro studi di Confindustria, mette in guardia, attenzione, che dopo il recupero e l'aumento di agosto arriverà un settembre in frenata, meno 1,8%. E questo a indicare che continua a essere un saliscendi, una forte oscillazione nel dato sulla produzione industriale. E su questo si concentrano i 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, come sempre trasmessi a quest'ora anche su RDS, oggi a firma del vice direttore del Sole 24 Ore, Alberto Orioli. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alberto Orioli. Un balzo inatteso. Ad agosto l'indice destagionalizzato della produzione industriale è aumentato dell'1,7% rispetto al precedente mese di luglio, ma ciò che più conta è che in un anno, rispetto all'agosto appunto del 2015, il balzo è stato del 4,1%, un salto del tutto inaspettato, visto che i principali centri studi prevedevano addirittura chi più chi meno cali o modestissimi incrementi. Va detto subito che il dato di agosto non è particolarmente significativo di una vera e propria tendenza, perché sconta fattori stagionali evidenti e i volumi su cui si calcolano gli incrementi sono comunque bassi, ma in ogni caso la sorpresa rimane. Tutto merito della vendita di auto e veicoli e della buona performance della domanda di beni strumentali e di macchinari, in cui l'Italia eccelle nel mondo. Quali sono i settori che vanno meglio? Dai dati di confronto annuale si è registrato un significativo aumento nei beni strumentali, appunto più 12,5%, nei beni intermedi più 7,6%. Mentre diminuiscono i comparti dell'energia, meno 4,1%, e dei beni di consumo, meno 1,3%. E per quanto riguarda i settori, per gli autoveicoli c'è una crescita record a più 41,9%, ma anche per la fabbricazione dei mezzi di trasporto, che porta a casa un 19,2%. Le diminuzioni maggiori invece si registrano nell'attività estrattiva, con un calo del 17,7%, nella produzione di prodotti farmaceutici di base, preparati farmaceutici, nell'industria tessile, abbigliamento e accessori, che sono calate del 5%. Non resta quindi che sperare che questa imprevista ondata positiva possa riverberarsi alla fine nella crescita del PIL, magari riservandoci qualche sorpresa positiva che sarebbe così utile anche nel negoziato sulla flessibilità dei conti che l'Italia sta conducendo a Bruxelles. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. E adesso una notizia che può far sorridere, ma in realtà scatenò una vera e propria guerra commerciale. Vi ricordate la dimensione delle vongole, su cui poi alcuni partiti hanno fatto anche campagna? Ma infatti era una cosa assurda, cioè l'Europa stabiliva le dimensioni delle vongole, tarandole sulla parte delle vongole, diciamo, del, dell'Atlantico soprattutto, e penalizzando, cioè non avremmo potuto pescare le nostre vongole di dimensioni più piccole. Ce ne occupiamo anche noi perché c'erano i pescatori di Chioggia e di tutta la parte ferrarese che erano fuori dalla grazia di Dio. Allora, arriverà giovedì prossimo, il 13 ottobre, quindi il via libera definitivo dell'Unione Europea alla misura tecnica della dimensione della vongola. C'è voluto un incontro bilaterale con il commissario europeo competente Carmen Vella, e la misura consentirà ai pescatori italiani di commercializzare vongole con taglia minima di 22 mm invece dei 25 mm fissati dalle norme europee. Entrerà in vigore dal 1 gennaio, poi non dice che le dimensioni non sono importanti, qui sono importantissime le dimensioni. 5 mm fanno la differenza per un settore della pesca italiano che può lavorare o non può lavorare. Ma dicevamo dei dati sulla produzione industriale, restavano sullo sfondo oggi nel corso dell'assemblea della Lombarda, appunto la prima come organizzazione territoriale delle assemblee di Confindustria come peso, ripeto 6.000 imprese, 320.000 addetti impiegati, perché riguarda sia Milano che Monza che la Brianza. È intervenuto il Presidente del Consiglio Renzi, quale ha detto tra le altre cose: le regole della finanza sono state scritte dai paesi dominanti e negli anni in cui l'Italia è stata assente l'Unione Europea si è inaridita e ha fatto regole finanziarie che difendono solo gli interessi dei paesi che dominano. Andare ad esempio in Europa e chiedere più rispetto per le posizioni italiane non è, come è stato descritto da troppi, il tentativo di cancellare alcune dinamiche di politica interna, è l'unico modo per cui si torni ad avere rispetto dell'Italia in Europa, che significa, lasciatemela dire così, permettere all'Europa di tornare a essere se stessa. Perché in questi anni in cui l'Italia è stata assente o quasi nel dibattito politico europeo, cos'è accaduto? Che l'Europa si è inaridita, che ha pensato soltanto al confine orientale, che si è messa a discutere soltanto di algide regole tecnocratiche e burocratiche e ha fatto delle regole finanziarie nel silenzio talvolta colpevole del nostro Paese, tutte finalizzate a difendere gli interessi di una parte di quei Paesi che stanno dominando l'Unione Europea. E poi sempre il Presidente del Consiglio: l'Italia smette di essere la patria delle divisioni, abbiamo fatto tanto, ma ci sono, Renzi ha ammesso che insomma il consuntivo delle cose messe in atto e che ha cambiato la ragione italiana ha aperto praterie ulteriori di cose da fare. Anticipiamo, poi venendo alle manovre, al 2016 parte del fondo di garanzia previsto dalla manovra sarà anticipato nel 2016, quindi parte di questi 900 milioni con un provvedimento di urgenza. Ci sono delle difficoltà nel credito, ha aggiunto Renzi, e rivolgendosi al Presidente di Confindustria ha detto: mettiamo da subito 900 milioni, una parte la metteremo già nel 2016. Se noi non saremo in grado di dire a chi lavora nelle imprese che sì, è vero, ci sono difficoltà, lasciatemi dire grazie a chi anche da Milano sta lavorando per risolvere la grave questione bancaria che ha colto il nostro Paese. È vero che ci sono difficoltà nel credito, mettiamo 900 milioni secchi subito, tra l'altro Enzo te lo dico prima che tu me lo dica, che tu me lo chieda, una parte li metteremo già nel 2016 con un provvedimento d'urgenza, quindi non soltanto metteremo i 900 milioni sul fondo di garanzia, ma li anticiperemo una parte al 2016 come deciso con il Ministro Calenda e il Ministro Padoan per dare un segnale immediato, perché bisogna pompare, soprattutto per chi non ha i requisiti previsti dalle grandi regole europee, la possibilità di dare denaro e far ripartire finalmente il credito e quindi la fiducia. E poi diciamo l'intervento anche del Presidente di Confindustria Boccia: la crescita deve essere non il progetto di Confindustria ma il progetto per il Paese. Se chiediamo ai nostri imprenditori qual è la prima domanda che ti fai quando entri in azienda oggi, la risposta è: come sarà il mio paese, la mia regione tra qualche anno. E la nostra sfida è crescere nelle fabbriche culturalmente e dimensionalmente e crescere come paese. Qual è il nostro pensiero? Innanzitutto quale industria immaginiamo? Un'industria ad alto valore aggiunto, ad alta intensità di investimenti, ad alta intensità di produttività, eccellente in ogni funzione aziendale. Da questa determinazione ne deriva l'idea di politica economica che abbiamo, che ha aperto un confronto sulla legge di bilancio con il governo, che vede un'attenzione su alcuni assi per noi importanti. Il primo è la produttività, e cioè una politica di fattori, interventi su nodi di sviluppo e non di settori, dell'offerta a partire dalle imprese innanzitutto per renderle più competitive. E poi la parte dei contratti, ha detto Boccia, il governo non intervenga, facciamo da soli. Invece ha chiesto insomma un intervento di carattere fiscale sui contratti di secondo livello, cioè la parte che riguarda la contrattazione aziendale, che vada verso una defiscalizzazione dei contratti di secondo livello. Sappiamo che abbiamo di fronte tre questioni: debito, deficit e crescita. Dobbiamo individuare strumenti selettivi, perché le risorse non sono tante, per costruire e cavalcare la quarta rivoluzione industriale. Il primo asso è la produttività. Abbiamo chiesto al governo di non intervenire sui modelli contrattuali, vogliamo definirli, se ci riusciremo, insieme al sindacato, ma intervenire sulla politica fiscale legata alla produttività, detassando maggiormente i premi di produzione nei contratti di secondo livello aziendale, creando le condizioni di convenienza per quello scambio salario-produttività. Secondo asse, riattivazione di investimenti privati, e il piano 4.0 va nella linea delle politiche dei fattori. Sulla questione finanza abbiamo proposto al governo di prevedere benefici fiscali per aumenti di capitali, perché si può e si deve crescere senza debito. E poi dicevamo l'ultimo intervento di Rocca, Gianfelice Rocca, come presidente, ha detto di apprezzare, che da parte di Asso Lombarda c'è apprezzamento per le riforme fatte dal governo. Bene il superamento del bicameralismo perfetto, bene anche il Jobs Act, la buona scuola. E poi invece al microfono della nostra Anna Marino ha ricordato anche cosa sia il progetto Milano Steam. Steam vuol dire vapore in inglese, ma in questo caso è l'acronimo di S come scienze, T come tecnologia, E come environment, quindi ambiente, e poi Milano. Ascoltiamo appunto Gianfelice Rocca al microfono di Anna Marino. Le iniziative sono quelle intorno alle traiettorie che abbiamo delineato, cioè Scienze della Vita. Milano può essere uno dei luoghi dove si fa ricerca, industria, digital innovation dei migliori al mondo. Ce ne sono tutte le premesse, basta che diamo continuità a qualche investimento, non sono grandi investimenti, ma facendocene una passione, una mania. Green economy, noi abbiamo tantissime aziende che possono veramente aiutare a risolvere i grandi problemi di inquinamento della città, del pianeta, perché le città sono un centro di problematiche green, perché si accumula molta gente in pochi spazi e molti trasporti in pochi spazi. Abbiamo parlato del capitale estetico, qui ci sono tantissimi prodotti che si vendono perché belli e ben manifatto, con una buona manifattura, e quindi questa è una leva su tutti i nostri prodotti. Abbiamo parlato della manifattura 4.0, queste sono traiettorie importantissime. Lo STEAM è un concetto che riguarda molto anche l'education, scienza, tecnologia, environment, art e manufacturing. Come vedete i concetti di STEAM sono le traiettorie, ma sono anche nell'intervento del governo. Allora, così appunto Renzi, Boccia e anche Rocca, ci sono anche altre dichiarazioni oggi, ma più marginali, del ministro Poletti. Invece io vorrei tornare con quelli che sono, non i postumi, perché i postumi si dicono di una malattia, ma insomma, quello che resta del G20 di Washington, visto che nel frattempo oggi si è aperto, adesso praticamente, l'Eurogruppo, e quindi il vertice dei ministri economico-finanziari europei. Perché riprendiamo il discorso dove l'avevamo lasciato. Lawrence Summer insomma è economista, ex segretario del tesoro dell'amministrazione Clinton, è a lui che si deve il copyright, diciamo, della definizione stagnazione secolare, il rischio che il mondo in qualche modo a livello di economia globale si ingrippi e vada verso un modello giapponese, che è quello più temuto da tutti, non perché in Giappone si viva male, ma in Giappone ha fatto per 12 anni inflazione zero, crescita zero e gli stimoli che arrivavano servivano a nulla. Il rischio è questo, poi ripreso anche da un economista come Rogoff e quant'altri. Summer, faccio notare che nel definire proprio, ed è consulente economico di Obama, oltre che essere stato segretario del tesoro di Clinton, ha detto: nonostante gli sforzi delle banche centrali, il clima degli incontri è stato mesto. E questo nonostante gli sforzi delle banche centrali che hanno spinto l'economia in territorio pericoloso. La ripresa infatti resta insoddisfacente, trovano sempre più spazi i movimenti populisti e si rafforza appunto l'ipotesi di stagnazione secolare in cui i risparmi strutturalmente vanno a superare la capacità di investimento e l'economia resta stagnante. Professor Bruni, buonasera di nuovo. Buonasera. Ecco, partiamo dal concetto di stagnazione secolare. È proprio questo, cioè non vuol dire recessione, vuol dire che i soldi che ho o che ottengo, che fatturo, che ottengo, non li spendo. Quindi aumenta il tasso di risparmio, la quota di risparmio, senza che aumentino gli investimenti e quindi riparte l'economia sia come investimenti che poi come consumi? Sì, bisogna vedere se si mette più colpa sulla eccesso di risparmio più colpa sulla carenza di investimenti. Io tendo a trovare che la carenza di investimenti è il vero colpevole, il risparmio poi viene fuori per finanziarli, e il problema è che l'incertezza globale frena il processo di investimenti e quindi di crescita. Questo della stagnazione secolare è il rischio di lungo periodo che corriamo. Poi ci sono una serie di rischi di medio che invece a Washington sono stati analizzati anche dai rapporti usciti dal fondo, quelli sono più articolati e più precisi: l'eccesso di liquidità, il problema del commercio internazionale che ristagna, il problema della struttura bancaria di molti paesi che va riformata in modo radicale, il tema della Cina che è fuori controllo come finanziamenti, problemi geopolitici, insomma diciamo che ci sono rischi di medio termine che in un certo senso sono più individuabili, più precisi di questa idea pessimista di lungo periodo su cui Summers ha aperto da tempo un dibattito mondiale. Torneremo su questo, però le chiedo, mentre Summers forse volando troppo alto parla di stagnazione secolare, mentre vari, li citavamo venerdì, cosiddetti guru o comunque economisti che avevano a suo tempo anticipato la crisi, mi riferisco a Rubini da un lato e a Taleb dall'altro, che è l'autore di quel libro, è diventato poi un libro di un culto, Il Cigno Nero, sono tutti concordi nel dire qua si sta preparando, non dico come nel 2008, ma una grossa sberla l'anno prossimo. Oggi l'Europa, o meglio l'area euro, i ministri economico-finanziari discutono di Grecia. Allora, dopo il meteo, visto che abbiamo parlato della dimensione delle vongole, vorrei capire se discutere di Grecia con lo scenario che abbiamo appena descritto non sia un po', come mi ha scritto un ascoltatore, lucidare, non dico i pomelli del Titanic, ma insomma occuparsi di altro mentre i problemi e le sfide sono leggermente più alti. La risposta dopo il meteo, 349-238-6666 per sms e whatsapp e la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. State ascoltando un programma offerto da SwissQuote.it, un leader globale nel trading sul Forex. Focus Economia. Minuti. Allora, professor Bruni, sono io che esagero o qui stiamo pensando alle brioche, ai pomelli del Titanic, cioè ci occupiamo di Grecia nell'Eurogruppo quando fuori, non dico che stia bruciando, però insomma tutti quanti, è vero quello che scrivono gli ascoltatori che Summers, in realtà Larry Summers ha avuto un ruolo fondamentale e negativo nella creazione delle basi della grande bolla speculativa, eliminando il Glass-Steagall Act, quindi quella legge americana che impediva alla banca che raccoglie risparmi e fa retail di essere una banca di investimenti. Mischiando le due cose è venuto fuori, abbiamo creato la bolla. Però diciamo, Summers ha sbagliato, ma insomma, mi sembra che gli altri economisti da fuori si preoccupino più di un 2017 pieno di incognite. E noi? Se vogliamo parlare del caso greco, sì, è un piccolo caso rispetto ai grandi problemi che abbiamo, però è molto significativo che non si riesca a gestire un problema così piccolo, anche perché in realtà la ricetta, almeno sul piano diplomatico, ci sarebbe. Il Fondo Monetario l'ha individuata da tempo, bisognerebbe riconoscere ufficialmente che i greci non sono in grado di rimborsare nel lungo periodo, e nello stesso tempo bisognerebbe smettere di pretendere che questi abbiano un surplus di bilancio di dimensioni assolutamente irraggiungibili nei prossimi anni. Se si facessero queste, se l'Europa fosse in grado, avesse l'unità e la capacità di fare questo passo diplomatico, il rapporto con la Grecia migliorerebbe e il pericolo di ritornare a dover occuparsi in modo, diciamo, drammatico di breve periodo dell'insolvenza greca sarebbe evitato. Quindi diciamo che è significativo che con un problema che giustamente lei dice in fondo è piccolo, non si riesca a ottenere un risultato. Questo vuol dire che c'è una debolezza grossa invece. Senta, professor Bruni, molti ascoltatori mi stanno chiedendo, ma alla fine, se dovesse dare un titolo ai rischi, al perché di questi rischi, quale sarebbe il titolo? Eccesso di liquidità perché i tassi sono bassi, politiche meno favorevoli alla globalizzazione e per timore anche dei partiti più populisti che prendono piede dappertutto, sicuramente in Europa. Cioè, qual è la cosa che vi preoccupa così tanto? Il titolo? Io direi ce ne sono almeno tre grossi rischi a medio termine. Uno è l'eccesso di liquidità, appunto, che lei ha nominato, e la mancanza di coordinamento delle politiche monetarie in una situazione in cui la banca centrale americana ha uno strapotere fuori controllo. Il secondo è il fatto che il commercio internazionale mostra di crescere troppo lentamente, e questo spaventa per le prospettive di crescita. E il terzo, che è ampiamente analizzato dal Fondo Monetario, è la scarsa redditività ed efficienza dei sistemi bancari di diversi paesi, che richiedono una riforma profonda. Il Fondo calcola che cosa succederebbe ai conti delle banche se il ciclo economico migliorasse, e mostra come il miglioramento del ciclo non basterebbe affatto a risolvere il problema dei bilanci bancari. Ci vogliono riforme, e il fondo le elenca anche. Il problema è che non abbiamo poteri adeguati e capacità adeguata per affrontare queste riforme in diversi paesi. Abbiamo invece incidenti come quello di Deutsche Bank oggi, che non è carino che si vociferi che la banca centrale europea che ricordavamo avuto, prima, certo. Cioè, si vede che abbiamo qualche cosa che non funziona in un punto chiave della credibilità delle autorità. Quindi dobbiamo risolvere queste cose e metterci a lavorare proprio molto più intensamente. Quindi io non prenderei un titolo unico, perché si rischia poi di semplificare troppo. Il problema è articolato e complesso. Forse il titolo unico è che siamo troppo tutti concentrati su interessi di breve periodo e nazionali, anziché guardare un po' più in là, a medio e lungo termine, e guardarci nella consapevolezza che dobbiamo lavorare insieme. Questo è che il mondo deve rimanere aperto, perché il mondo aperto è più complicato, però è anche un mondo che non è anche l'unico modo per affrontare problemi che sono mondiali. Quindi invece abbiamo tutti un atteggiamento di chiusura che rende i problemi più difficili da gestire. E devo dire che anche da questo punto di vista l'Europa è stato un grandissimo laboratorio, in negativo se vogliamo, nel senso che quello che lo spettacolo che abbiamo messo in piedi in questi ultimi anni è stato proprio di un'Europa in cui ogni paese pensa ai casi suoi principalmente, no? Certo, e quindi e gli altri devono seguire. Non ce l'ho solo con la Germania, visto come lo scrivete, ma anche con la Germania. Insomma, e la Germania, l'Italia, la Lombardia, Roma, cioè voglio dire, le visioni di breve che guardano solo al proprio chilometro zero, la politica del chilometro zero è una cosa estremamente diffusa. Anche elettoralmente, diciamo. Sì, proprio il così. Problema del chilometro zero. Dunque, qualcuno mi scrive, e la saturazione dei mercati dove la mettete? No, è il portato di quello che veniva detto prima, c'è cioè un eccesso di liquidità. Allora, la liquidità è chiaro che, se noi prendiamo i principali indici a livello mondiale, è chiaro che la liquidità lì si è diretta, però da un lato rischi di sovrapprezzare i titoli e sovrapprezzare i titoli, dall'altro faccio anche notare che dopodiché la liquidità genera anche una fuga a un certo momento. Prima dello scoppio della crisi l'indice DAX stava sostanzialmente a 6.400 punti, crollato poi a 4.000 l'indice tedesco DAX. Adesso sapete quanto viaggia? A 10.000, 11.000. Non è che ci sia un rischio bolle anche nelle borse, Bruni? Non c'è dubbio, è sempre lì pronto, però la diagnosi ufficiale è che nel breve periodo la situazione è dominabile nel breve periodo. Il problema è che il rischio di medio diventa sempre poi più vicino, quindi se si va avanti senza risolvere i problemi di medio termine, il pericolo che scoppi qualcosa nel breve periodo aumenta, quindi diciamo che se l'anno venturo siamo ancora lì con gli stessi rischi di medio periodo, li dovremmo chiamare di breve, ecco. Il messaggio è chiaro, grazie anche a Franco Bruni. Traffico. Focus Economia. :17:53 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Berisoni. La borsa adesso e poi passiamo agli altri due temi, quindi Eurogruppo e Nobel all'economia, a due accademici. +1,40% Milano, +1% Parigi, +1,30% Francoforte, +0,70% Londra. Bene oggi bancari, il motivo per cui Milano è relativamente più forte rispetto ad altre borse. Banco Popolare +6,30%, Pop Milano +6%, Emilia Romagna +3,60%, bene anche Azimut +4,30%. E poi petroliferi, Saipem +3,20%, Eni +2,30%, Tenaris +2,15%. Come sempre con Radio Cori, Sole 24 Ore, Guido Maurino, buonasera. Buonasera. Partiamo dai bancari, poi dopo parliamo degli altri settori. Sì, allora, per quello che riguarda i bancari, oggi è stata una buona giornata in particolare per la Popolare di Milano, +5,95%, per il Banco Popolare +6,31%, nella settimana che porterà l'assemblea dei due istituti di credito sabato prossimo, due assemblee che dovranno sancire la fusione fra i due gruppi. E ci si interroga soprattutto su quello che farà la Popolare di Milano, dove alcuni gruppi di azionisti sono più riottosi rispetto alla prospettiva di una fusione, anche se le ultime indicazioni che arrivano sono comunque danno la Popolare di Milano anche qui vicina a raggiungere, come dire, l'obiettivo della fusione, in quanto ci sono molti soci registrati e un'alta partecipazione all'assemblea favorisce, secondo gli operatori, appunto il sì alla fusione col Banco Popolare. Sì, di cui si è molto parlato in questi giorni. Allora, per quello che riguarda invece, adesso devo andare verso GR24, vedo che Twitter continua a fondare in borsa a Wall Street dopo la rinuncia di Google, Apple e Walt Disney. Insomma, nessuno la vuole sta Twitter. Sì, oggi ci sono queste indiscrezioni secondo cui appunto nessuno di questi pretendenti che erano circolati nelle scorse settimane sarebbe disponibile a presentare un'offerta per Twitter. Ovviamente la notizia è molto negativa e per quanto Wall Street si mantenga in territorio molto positivo grazie al rialzo del prezzo del petrolio, i titoli di Twitter stanno calando vistosamente in borsa. Allora, il resto dei titoli dei settori dopo il GR24, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp e poi la pagina di Focus Economia sul sito. Vorrei un'Europa dove anche le donne possano far sentire la loro voce. E tu come vorresti l'Europa? Ogni giorno alle 14 alle 21.30 Europa 24 ti aiuta a costruirla, informandoti in tempo reale sulla situazione politica, economica e culturale dell'Unione Europea, per essere davvero cittadini d'Europa. In collaborazione con Euronet Plus. Sono Gigi Telesforo e volevo ricordarvi l'appuntamento con la grande musica di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. Di Gigi Telesforo. Il sabato e la domenica a partire dalle 19.15. Soundcheck. Sempre soltanto su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da... L'impressionismo di Zan Domenichi. In mostra a Padova, Palazzo Zabarella, fino al 29 gennaio. State ascoltando un programma offerto da... SwissQuote.it, un leader globale nel trading sul Forex. Focus Economia. 18 e 7 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Berisoni. Concludiamo la pagina di Borsa allora con Guido Maurino. Dicevamo bene oggi tutti i titoli legati al settore petrolio. C'è il WTI sopra i $50, $51, più 3%. Sì, oggi tutti i titoli del settore sono andati bene, anche perché il WTI ha aggiornato i massimi da 4 mesi a questa parte, mentre per quello che riguarda il Brent risaliamo addirittura ai valori di ottobre dell'anno scorso. I titoli ovviamente più legati, più esposti al petrolio sono andati bene, Eni più 2,33%, anche Saipem più 3,21%. Diciamo che questo rimbalzo del petrolio è stato innescato anche dalle parole del presidente russo Putin, che in qualche modo si è un po' allineato a quello che stanno dicendo i vari paesi produttori di petrolio rispetto al fatto che serva a stabilizzare il mercato. C'è un meeting importante formale dell'OPEC già previsto per fine novembre, quello dovrebbe essere l'appuntamento in cui i paesi produttori daranno indicazioni rispetto a una stabilizzazione dei livelli di produzione, e anche Putin oggi ha detto che una stabilizzazione dei livelli di produzione, forse addirittura un taglio della produzione di petrolio, potrebbe essere necessario. Quindi tutto il movimento che abbiamo visto oggi sul prezzo del petrolio è un po' innescato da queste parole di Putin, che si è allineato ai paesi OPEC. Allora andiamo avanti su altri titoli e altri settori in negativo. Dicevo Ferragamo meno 1,46, A2A meno 0,70, Luxottica meno 0,70, Finecobank meno 0,70 per cento anch'essa. Tra i bancari mi chiede l'Intesa San Paolo più 0,6 Intesa, mentre oggi il Monte dei Paschi è rimasto in una giornata più che positiva per molti bancari, è rimasto al palo più 0,20%, come Unicredit più 0,20%. Anch'esso Telecom è l'ultimo titolo che ho per te. Sì, allora, per quello che riguarda Telecom, oggi ha fatto più 2,35% ed è riuscito ad arrestare la frenata dell'ultimo periodo. Telecom arrivava infatti da 7 sedute di calo consecutive. Non ci sono notizie particolari, se non il fatto che Bolloré, che è il primo azionista di Vivendi, si è rafforzato nel gruppo francese. È salito oltre il 20% e da aprile, grazie al meccanismo di voto multiplo, avrà il 29% del gruppo francese Vivendi. Vivendi è il primo azionista di Telecom Italia e quindi indirettamente abbiamo assistito a un rafforzamento della presa di Bolloré proprio su Telecom Italia. Fra l'altro Vivendi è molto impegnata non solo su Telecom Italia in questa fase, ma anche per quello che riguarda Mediaset Premium. Da giorni abbiamo indiscrezioni rispetto al fatto che ci possano essere nuove intese fra Vivendi e Mediaset rispetto alla Pay TV, e per cui insomma è una fase di forte attivismo di Bolloré in Italia, e l'abbiamo visto oggi anche su Telecom Italia, sull'andamento di Telecom Italia. Allora andiamo avanti invece con i migliori e peggiori, come sempre in questa occasione. Innovatech più 19%, Digital Magix più 15%, TAS più 9%, Leone Film Group più 8,90%, fronte opposto Italia Independent meno 8%, Poligrafici Printing meno 7%, Go Internet meno 6%, Il Sole 24 Ore meno 4,90%, Poligrafici Editoriale meno 4,90%. Anch'esso grazie Guido Maurino, Radio Corriere sulle 24 ore. Noi andiamo invece su, prima non voleva essere offensiva l'idea che a Bruxelles stessero pensando alle brioche o lucidando i pomelli del Titanic, mentre nel resto del mondo dal G20 ci sono preoccupazioni fortissime sulla qualità di questa ripresa e il rischio bolla. Però era una battuta nata dal fatto che oggi a Bruxelles l'oggetto dell'incontro è la Grecia, la situazione della Grecia. Oggi l'Eurogruppo, domani all'Ecofil, e quindi ascolteranno dalle istituzioni i progressi di Atene sulle cosiddette milestones, che sarebbero le pietre miliari le riforme fondamentali che Atene deve fare per sbloccare altri 2,8 miliardi. Ricordo che a maggio l'Eurogruppo aveva dato via libera al versamento di 10 miliardi di euro, solo 7,5 sbloccati a giugno. Le altre risorse sono legate al raggiungimento di una serie di misure che riguardano privatizzazioni, settore energetico, istituire l'agenzia delle entrate e anche sulla governance bancaria. Faccio notare che il Fondo Monetario Internazionale però si è chiamato fuori da questo programma, da quello di salvataggio, non metterà più soldi, si sta ricavando un ruolo da consulente e ha detto non più tardi della scorsa settimana, come prima ricordava anche il professor Bruni, è inutile che voi vi accaniate a chiedere alla Grecia un surplus, quindi un attivo tra uscite e entrate altissimo, per permettere di ripagare il proprio debito. Quel debito lì, mettetevela via completamente nella forma in cui volete voi, non riuscirà a pagarlo e si rischia l'accanimento terapeutico. Però si è parlato anche d'Italia, Moscovici, commissario europeo, l'ingresso dell'Eurogruppo, gli hanno chiesto, ma allora l'Italia avrà la flessibilità? Ha detto sì, deve continuare a essere seria sul deficit. Non abbiamo ancora ricevuto la bozza del progetto di bilancio dell'Italia come degli altri paesi della zona euro. Ovviamente abbiamo già avuto discussioni con i responsabili politici. Mi sono intrattenuto a lungo e amichevolmente con Piercarlo Padoan a Washington durante una riunione del Fondo Monetario Internazionale. Siamo assolutamente consapevoli degli sforzi compiuti dall'Italia per ridurre il deficit. Sappiamo anche che possono sopraggiungere circostanze eccezionali. La Commissione si è sempre mostrata disponibile a tener conto delle flessibilità per investimenti e riforme e quando sopraggiungono eventi o necessità particolari e straordinari. Penso alla crisi dei rifugiati o al terremoto. Al tempo stesso è necessario che l'Italia continui ad essere seria nei suoi sforzi di riduzione del deficit e che ci manteniamo nella credibilità delle regole. Sì a tutte le flessibilità, sì a fare in modo che l'Italia sia un paese forte nel cuore dell'area euro, che contribuisce alla costruzione europea e resiste ai populismi. Ma ci sono anche delle regole che devono essere rispettate da tutti. Ci sono delle flessibilità che ci consentono un'interpretazione intelligente del patto, ma restando nell'ambito delle regole, e i nostri amici italiani lo sanno fare. Allora, professor Alberto Quadrio Curzio, buonasera, editorialista del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera, buonasera. Ha rassicurato a chi gli ha chiesto l'ingresso al nostro ministro dell'economia. Come il governo intende tranquillizzare l'Unione Europea sui numeri del deficit strutturale. Stiamo lavorando fianco a fianco, intanto ovviamente il governo sta preparando il bilancio che sarà approvato alla fine settimana al Consiglio dei Ministri. Noi lavoriamo in assoluto rispetto delle regole in collaborazione, quindi non c'è problema di rassicurare nessuno. Vorrei aggiungere un'altra cosa che non riguarda l'Italia specificatamente, uno dei temi che affronteremo sarà l'inizio di un processo di revisione del patto di stabilità e crescita che anche l'Ecofin di Bratislava era stato affrontato, quindi ragioneremo anche di temi di più lungo termine. Allora, vediamo se capisco, professor Quadrio Curzio, cioè mentre gli economisti di tutto il mondo si interrogano sul rischio di una nuova bolla, il rischio di un crollo dei mercati azionari, l'eccesso di liquidità, come farà la Fed a aumentare i tassi di interesse, il disallineamento delle volte delle banche centrali, il rischio, per citare Summers, della stagnazione secolare, noi ci occupiamo di Grecia ancora? Noi ci occupiamo di Grecia quasi che questo fosse il problema principale, se non unico, dell'Eurozona e più in generale dell'Unione Europea. Sappiamo tutti che la Grecia è stata una sequenza di errori che ha portato da un lato a mettere in ginocchio quel paese e da un altro lato a non risolvere i suoi problemi. Forse sono stati risolti i problemi di altri, compresi quelli di banche molto esposte verso la Grecia, comprese le banche tedesche, ma i problemi della Grecia nell'Eurozona e della Grecia di per sé non sono stati assolutamente risolti. E quindi ha ben ragione il Fondo Monetario a dire in un modo così chiaro e netto che sul debito greco pensare di rientrare attraverso degli avanzi primari mostruosi si sta facendo qualcosa di assolutamente utopico. Cioè, contro natura, è come chiedere a uno che diciamo soffre di una malattia di dimagrire ulteriormente, nel senso, lo porti verso il campo santo. Ecco, ma secondo lei questo cos'è? È mancanza di lungimiranza, automatismi? Oggi l'altra notizia che riguarda l'Europa è la dimensione delle vongole, ma siamo contenti perché le hanno abbassate a 22 a quanti bella, millimetri? No? Aspetti, perché io ci tengo molto invece ai pescatori di Chioggia, di tutto il nostro Adriatico e anche del Tirreno, ci mancherebbe da 25 mm a 22 mm, quindi le nostre vongole sono, le arselle sono salve, i vongolari, o meglio gli abitanti dell'Europa un po' meno, professore. Ma certo, il problema delle vongole sappiamo tutti che era uno dei principali problemi e finalmente è stato affrontato. Detto questo, naturalmente, vongola su vongola si fa andare la Unione Europea e l'Eurozona verso una vera e propria stagnazione, perché con la politica monetaria così espansiva non riuscire a riprendere tassi di crescita vicini al 2% è veramente incredibile. E allora si continua in qualche modo a taccheggiare sempre sull'impronta tedesca, la quale, avendo una situazione interna molto buona, avendo avuto dalla crisi più vantaggi che svantaggi, ritiene che tutti gli altri debbano comportarsi come la Germania stessa, ma la situazione è molto diversa, perché la Germania ha avuto dalla crisi dei benefici in termini di tassi di interesse bassissimi ben prima che il quantitative easing partisse. Certo. Tra l'altro si noti che la Germania ha degli avanzi sia commerciali che di bilancio che sono mostruosi, e anche lì il fondo continua a richiamarla dicendo: ma non dovete fare più investimenti, dovete fare più investimenti, ma non c'è verso di sì. Anche oggi il dato sul bilancio commerciale tedesca devo dire che è impressionante, perché va a 22 miliardi, adesso lo riprendo, 22 miliardi di avanzo commerciale, tra l'altro in crescita, eccolo qua, mese di agosto più 5,4 l'export, quindi il surplus si amplia a 22 miliardi contro un surplus precedente di 19 miliardi e mezzo. Però professore, al di là delle vongole, su cui siamo tutti contenti tranne le vongole forse, quelle sotto i 25 mm, dopo il traffico vorrei capire un'ultima cosa, perché poi vorrei passare con Fabrizio Garimberti alle ragioni che hanno fatto vincere il Nobel all'economia, a chi studiava i contratti. Cioè, vorrei capire perché noi sembriamo dissociati dal resto del mondo. Cioè, tutti gli altri, cioè il G20, tutti si interrogano, sono preoccupati per una cosa, noi siamo preoccupati della regola, del patto di stabilità, siamo preoccupati della Grecia. Cioè, sembra quasi che le dinamiche che spaventano gli altri a noi non ci tangano. Forse perché siamo cresciuti così poco che si immagina di poter calare forse poco. La risposta dopo il traffico. Focus Economia. Allora, cosa c'è, professore? Un cupio di soldi, l'incapacità di affrontare altri temi, insomma, oppure lo stallo ormai dei nazionalismi, delle elezioni che incombono? Ma io credo che ci siano almeno due componenti. Da un lato, la convinzione che l'Unione Economica e Monetaria Europea gravi sulla Germania e sulla virtù della Germania in un modo pesantissimo. Non si è ancora capito per quale motivo questa psicologia si è diffusa in Germania, e soprattutto è stata capace di intaccare anche i governanti del paese stesso. Ecco, io mi chiedo per esempio che cosa abbia mai dato l'Italia, cosa ha mai preso l'Italia dalla Germania quando gli avanzi primari italiani sono stati mostruosi nel corso degli anni, quando noi non abbiamo mai mancato una volta di adempiere ai nostri obblighi di debitori col pagamento degli interessi, col pagamento e rimborso dei titoli, mai nulla. Invece, naturalmente, abbiamo contribuito nei momenti di panico con dei flussi di capitale a andare ad acquistare titoli tedeschi, bund tedeschi, in qualche modo dando una mano al calo dei tassi di interesse. La seconda ragione è che questo accanimento nel contesto della Commissione europea sui particolari e non sul carattere generale di un'area che si deve integrare per crescere ha portato a una specie di iperfettazione delle regole che ancora una volta il Fondo Monetario ha ampiamente criticato. Da ultimo, evidentemente non hanno letto molta storia economica, perché da crisi pesanti come quella che abbiamo avuto negli anni passati, negli 8 anni passati, non si esce senza fare spesa infrastrutturale, naturalmente di parte pubblica, ma non si riesce assolutamente. Quello che hanno fatto gli Stati Uniti è stato investire in infrastrutture e tagliare corto, e noi continuiamo a dilettarci in queste regole assurde, a mio avviso sostenute da una psicologia di chi sta dando il sangue a tutto il resto dell'Unione Economica e Monetaria, cioè la Germania, che in realtà non sta dando proprio nulla. Sì, io ricordo adesso qua davanti Fabrizio Galimberti, che ha scritto dei libri bellissimi sulla storia economica, economia e pazzia, giusto Fabrizio? Buonasera innanzitutto, editorialista sulle 24 ore. Grazie. Per parlare dei premi Nobel. Però ricordo che, se non vado errato, gli stessi Stati Uniti recuperano il potere d'acquisto precedente alla crisi del 29 solo nel 42, in piena, diciamo, fase di investimento nel settore armi, chiaramente perché sono entrati in guerra. Questo per dire che non esiste un caso storico al mondo in cui, a fronte di una crisi pesantissima, strutturale, come quella del 2008-2009, tu ne sia uscito senza investimenti anche di carattere pubblico. Può piacere o no, e non vuol dire buttare via i soldi, vuol dire fare ponti, ferrovie, autostrade, digitalizzare il paese, lo continuiamo a ripetere, ma non ci sentono. Grazie professor Quadricuzzo intanto, e adesso passiamo negli ultimi 5 minuti a cercare di capire, lo dico senza falsa modestia, perché Fabrizio capisce tutto, io molto meno, perché cavolo di motivo Bengt Holmström, che è finlandese, nato a Helsinki nel 49, e invece Oliver Hart, che è britannico, è nato nel 48 a Londra. Hart insegna a Harvard, invece Holmström insegna al MIT, al MIT di Boston, perché abbiano vinto il Nobel per uno studio sui contratti ottimali. Allora, i loro studi hanno tracciato una cornice complessiva per l'analisi di diversi aspetti della struttura dei contratti, ad esempio le retribuzioni basate sulle performance degli altri dirigenti, quelle che, diciamo in apertura, furono oggetto di scandalo quando scoppiò la bolla speculativa, perché si disse, attenzione, la bolla, quando scoppiò la crisi del 2008, scusatemi, perché si disse i rischi presi dai top manager bancari erano dovuti anche al fatto che le loro retribuzioni erano legatissime al breve e ai bonus, e quindi assumevi rischi impropri. E hanno sviluppato una vera e propria teoria dei contratti. Fabrizio, che cos'è la teoria dei contratti? Beh, la teoria dei contratti è un utilissimo buco della serratura da cui guardare a tanti problemi dell'economia tout court. In pratica si tratta di risolvere quello che è chiamato il problema principal agent, cioè il problema mandante e mandatario. Il mandante, per esempio, potrebbe essere l'azionista di una società, il mandatario è il manager. Il problema è come allineare gli interessi del mandante su quelli del mandatario, perché il mandatario può essere interessato solo al breve termine, il manager può essere interessato solo al breve termine e invece l'azionista è interessato a lungo. Quindi si tratta di escogitare delle forme di remunerazione in modo che da rendere compatibili e allineare gli interessi dei due protagonisti. E la cosa è abbastanza facile farla su un modello, mentre invece quando poi si tratta di accostare la vita reale e vedere anche il modo di compensare i lavoratori, i manager non apicali necessariamente, quindi che possono anche avere più compiti da svolgere, ci possono essere forme di remunerazione o monetarie oppure con potenziali promozioni oppure con opzioni di azioni. Quindi si tratta di una casistica complessa che i due autori hanno sviscerato. E tutte queste cose hanno applicazioni, la teoria dei contratti, non solo nei rapporti fra appunto società e manager, ma hanno applicazioni anche in altri campi. Per esempio ci sono anche dei contratti costituzionali, contratti che guardano alla vita delle istituzioni, e ci sono dei contratti impliciti fra cittadini e Stato. Anche qui si tratta di capire qual è il disegno ottimale per realizzare questi contratti espliciti o impliciti. Tra l'altro, se non ricordo male, Hart, uno dei due premiati, ha lavorato a uno studio che non c'entra niente con i contratti, però con un nostro ospite spesso, editorialista del Sole 24 Ore, Luigi Zingales, dimostrando invece che è una domanda che spesso gli ascoltatori ci rivolgono: perché una banca non può fallire, o meglio, perché il fallimento di una banca ha degli effetti più disastrosi del fallimento di un'azienda, proviamo, di pari dimensioni ma manifatturiera, anche a parità di dipendenti, no? Sì, il titolo di questo lavoro con Zingales è The Banks How Liquidity Is, cioè le banche sono dove c'è la liquidità. E la risposta che danno è un po' diversa da quella che un famoso rapinatore degli anni 40 diede al magistrato davanti a cui era stato trascinato dopo aver per l'ennesima volta rapinato una banca. Il magistrato gli chiese: ma tu perché continui a rapinare banche? E lui rispose: vostro onore, perché è lì che ci sono i soldi. Ebbene, Zingales e Hart hanno dimostrato, diciamo, formule e matematica alla mano, che il fallimento di una banca causerebbe maggiore stress, maggiore benessere rispetto al fallimento di un'impresa manifatturiera. Sì, causerebbe maggiore stress e maggiore malessere rispetto al fallimento di un'impresa manifatturiera, perché nelle banche si concentra la liquidità di coloro che ne hanno bisogno. Quindi paradossalmente vai a colpire proprio chi ha più bisogno, di liquidità. Esatto. Grazie anche a Fabrizio Galimberti, è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia, che torna domani dalle 17 in poi. Intanto, da Sebastiano Barisoni, l'augurio di una buona serata. Radio 24. La passione si sente.